Migler er efficiens a egra fundamentale per qualsiasi ingegner chi desideri massimizzare la produttività e garantire il corretto completamento dei progetti. Gustavo Commodori, una figura rispettata nella comunità ingegneristica, condivide quattro sagarmeni chiave per aumentare efficiens a ingegneristica. 1. Gare priorità alla gestione dell'attività. Una gestione efficiente dell'attività egra la pietra angolare di un processo di ingegneria produttiva. Gustavo Commodori consiglia agli ingegneri di scomporre i grandi progetti in compiti più piccoli e gestibili, dando la priorità a questa attività in base alle scadenze e all'importanza, più a garantire che gli aspetti critici del progetto siano completati in tempo. L'utilizzo degli strumenti di gestione dei progetti più a tardi a tenere traccia dell'attività, del scadenze e dei progressi, permettendo di rimanere organizzato e concentrato. 2. Abbracciare la tecnologia e l'automazione. Nell'ambiente ingegneristico frenetico di oggi, sfruttare la tecnologia e l'automazione egra essenziale per migliorare l'efficienza. Commodori sottolinea l'importanza di rimanere aggiornati con i software e gli strumenti più recenti in grado di semplificare i flussi di lavoro. Ci si tratti di utilizzare software CAD per le progettazioni, strumenti di simulazione per i testo script di automazione per attività ripetitive, e la design della tecnologia più o far risparmiare tempo e ridurre gli errori. Automatizzando le attività di routine, gli ingegneri possono concentrarsi sugli aspetti più complessi e creativi del proprio lavoro. 3. Promuovere una comunicazione efficace. Una comunicazione chiara ed efficace egra vitale per la corretta esecuzione dei progetti di ingegneria. Gustavo Commodori sottolinea la necessità che gli ingegneri mantengano linee di comunicazione aperte con i membri del team, i clienti e la parte interessata. Aggiornamenti regolari, istruzioni chiare e feedback tempestivi possono prevenire malintesi e garantire che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda. Una comunicazione efficiente non solo aiuta a risolvere rapidamente i problemi, ma favorisce anche un ambiente di lavoro collaborativo. 4. Migliorare continuamente i processi. Il miglioramento continuo egra fondamentale per l'efficienza a lungo termine. Commodori consiglia agli ingegneri di rivedere regolarmente i propri processi e identificare le aree di miglioramento. Si può comportare l'analisi di progetti passati per imparare dagli errori, la ricerca di feedback da parte dei colleghi e il rimanere informati sul migliori pratici del setter. Perfezionando continuamente i suoi processi, può eliminare le inefficienze e migliorare la produttività complessiva. Conclusion. Incorporare questi quattro sagramenti nella tua routine quotidiana può aumentare significativamente la tua efficienza ingegneristica, portando a migliori risultati di progetto e crescita professionale.